Nel settimo mese, nel primo del mese, avrete una convocazione sacra. Non farete nessun lavoro servile. Sarà per voi il giorno dell'acclamazione. Offrirete al Signore un olocausto di odore che placa, un toro giovane, un montone, 7 agnelli di un anno, integri, con la loro offerta di fior di farina intrisa in olio, 3 decimi per toro, 2 decimi per montone, 1 decimo per ognuno dei 7 agnelli, e un capro in sacrificio espiatorio, per il rito espiatorio per voi. Oltre all'olocausto mensile e alla sua offerta, all'olocausto perenne, alla sua offerta e alle loro libazioni, secondo l'usanza. Sacrificio col fuoco al Signore, in odore che placa. Il 10 di questo settimo mese avrete una convocazione sacra. Vi mortificherete e non farete nessun lavoro servile. Presenterete al Signore, in olocausto di odore che placa, un toro giovane, un montone, 7 agnelli di un anno integri. La loro offerta, in fior di farina intrisa in olio, sarà di 3 decimi per toro, 2 decimi per montone, 1 decimo per ognuno dei 7 agnelli. Un capro in sacrificio espiatorio, oltre al sacrificio espiatorio proprio del rito dell'espiazione, all'olocausto perenne, la sua offerta e le loro libazioni. Il giorno 15 del settimo mese avrete un'assemblea sacra, non farete nessun lavoro servile e farete la festa al Signore per 7 giorni. Presenterete in olocausto al Signore un sacrificio col fuoco di odore che placa, 13 tori giovani, 2 montoni, 14 agnelli di un anno integri. La loro offerta, in fior di farina intrisa in olio, sarà di 3 decimi per ciascuno dei 13 tori, 2 decimi per ciascun montone, 1 decimo per ognuno dei 14 agnelli, un capro per il sacrificio espiatorio, oltre al sacrificio perenne, alla sua offerta e alla sua libazione. Il secondo giorno, 12 tori giovani, 2 montoni, 14 agnelli di un anno integri, la loro offerta e le loro libazioni per tori, montoni e agnelli, secondo il numero e l'usanza, un capro per il sacrificio espiatorio, oltre all'olocausto perenne, la sua offerta e le loro libazioni. Il terzo giorno, 11 tori, 2 montoni, 14 agnelli di un anno integri, la loro offerta e le loro libazioni per tori, montoni e agnelli, secondo il numero e l'uso. Un capro per il sacrificio espiatorio, oltre all'olocausto perenne, la sua offerta e la sua libazione. Il quarto giorno, 10 tori, 2 montoni, 14 agnelli integri. La loro offerta, le loro libazioni per tori, montoni e agnelli, secondo il numero e l'uso. Un capro per il sacrificio espiatorio, oltre all'olocausto perenne, la sua offerta e la sua libazione. Nel quinto giorno, 9 tori, 2 montoni, 14 agnelli integri. La loro offerta e le loro libazioni per tori, montoni e agnelli, secondo il numero e l'uso. Un capro per il sacrificio espiatorio, oltre all'olocausto perenne, la sua offerta e la sua libazione. Nel sesto giorno, 8 tori, 2 montoni, 14 agnelli, integri, la loro offerta e la loro libazione per tori, montoni e agnelli, secondo il numero e l'uso. Un capro per il sacrificio espiatorio, oltre all'olocausto perenne, la sua offerta e la sua libazione. Nel settimo giorno, 7 tori, 2 montoni, 14 agnelli, integri, la loro offerta e la loro libazione per tori, montoni e agnelli, secondo il numero e l'uso. Un capro per il sacrificio espiatorio, oltre all'olocausto perenne, la sua offerta e la sua libazione. Nell'ottavo giorno avrete una riunione, non farete nessun lavoro servile. Presenterete al Signore in olocausto un sacrificio di fuoco, di odore che placa, un toro, un montone, 7 agnelli di un anno integri, la loro offerta e le loro libazioni per toro, montone e agnelli, secondo il numero e l'uso, un capro per il sacrificio espiatorio, oltre all'olocausto perenne, la sua offerta e la sua libazione. Questo farete al Signore nelle vostre ricorrenze, oltre ai vostri voti, offerte volontarie, olocausti, offerte, libazioni, sacrifici di pace.